in primo piano. In questo mercoledì 29 giugno l'apertura di quasi tutti i quotidiani è dedicata alla manovra. Ecco la manovra dei tagli, così titola Il Sole 24 Ore, ticket sanitari dal 2014, stretta su spesa e pubblico impiego. Per il Corriere della Sera tornano i ticket, stretta sugli statali. Per Repubblica, tregua sulla manovra, torna il ticket. La Stampa, sanità, il ritorno del ticket. Questo evidentemente è l'aspetto che più colpisce nei titoli per quel che riguarda la manovra. Il Fatto Quotidiano, io truffo, tu paghi. Il governo presenta una manovra da 47 miliardi, ma la stangata è a babbo morto, scatterà dopo le elezioni. Per Avvenire, arriva la manovrona. Il Messaggero, arriva la manovra, ecco le misure. L'Unità mette invece una foto di Tremonti e Berlusconi, pagheremo caro, pagheremo tutto. Manovra pericolosa. Mentre Libero e Il Giornale si concentrano su un altro tema. Libero ha sicuramente una novità sulla vicenda P4, furbate nell'inchiesta P4, gli SMS rubati a Berlusconi, intercettati i messaggi tra Silvio e la Valanzano. Nessuno dei due è indagato. Il Giornale invece, tangenti e martello, in cella l'uomo di Bersani, braccio destro del segretario, ex socio di D'Alema, coinvolti in una storia di tangenti. È la vicenda dell'arresto di un consulente dell'ENAC. Vabbè, le segnalazioni da cui voglio partire. La prima è una notizia drammatica perché parla di una persona, un medico, un chirurgo, che è deceduto. Però prima ha fatto un gesto davvero molto coraggioso, qualcuno dice. Medico eroe salva paziente e muore di infarto. È successo all'ospedale di Rho, in provincia di Milano, quando il protagonista, Vincenzo Capacchione, medico 49enne nel reparto di emodinamica, è arrivato in ospedale con la febbre, con un dolore al torace, dicendo c'è qualcosa che non va, devo andare a farmi visitare, ma prima gli hanno detto, guarda, però c'è un'operazione d'urgenza da fare al cuore proprio. E lui ha detto, allora prima faccio questa operazione. È corso in ospedale, ha fatto un'angioplastica con i minuti contati, se voleva riuscire a strappare alla morte il paziente, tutto fila per il meglio, il paziente è salvo e il medico si toglie il camice e proprio mentre sta andando a fare la visita per questo dolore nel petto che sentiva da qualche ora, non ha il tempo e muore per un infarto. Ora ovviamente questa storia viene raccontata da Repubblica oggi. Medico eroe salva paziente e muore di infarto. A Rho nel Milanese, dopo l'intervento d'urgenza, il cardiologo si è sentito male. Per lui ovviamente ci sono le parole dei colleghi, di tutte le persone che lo conoscevano. Un uomo straordinario, un atto di coraggio, un atto di altruismo, una persona che credeva in quello che faceva, aggiunge qualcuno in sentito da Repubblica. È una storia raccontata da Gabriele Cereda a pagina 20. Mentre due storie di giustizia che il Giornale mette a pagina 17 affiancate dal titolo E la chiamano giustizia. Sentite qui, la prima storia è questa, scarcerato dal tribunale, lo stupratore ci riprova. 15 mesi a San Vittore per violenza sessuale, questa era l'accusa, ma nessuno ha imbastito il processo per lui e dunque per scadenza dei termini di custodia cautelare è stato rilasciato e appena uscito il rumeno Stelica Candoi, 41 anni, ci ha riprovato cercando di violentare un'altra donna. Dopo 15 mesi a San Vittore, un rumeno esce per scadenza dei termini, aggredisce una ragazza e torna in cella, così racconta Enrico Silvestri. E a fianco un'altra sentenza che fa molto discutere, la Cassazione legalizza la cannabis in terrazzo. È una vicenda che anche sul Messaggero ha spazio, una mezza pagina, pagina 17, marijuana per la Cassazione, una sola pianta in casa si può. La Corte di Cassazione infatti con una sentenza ha respinto il ricorso della Procura Generale della Corte d'Appello di Catanzaro che si era opposta all'assoluzione di un ragazzo di Scalea in provincia di Cosenza, il quale teneva sul balcone una sola piantina di marijuana. Secondo la Cassazione essendo modesta l'attività posta in essere, in questo caso una sola pianta, il comportamento dell'imputato deve essere ritenuto del tutto inoffensivo e non punibile anche in presenza di specifiche norme di segno contrario. Di fatto, scrive il giornale per la Cassazione, non solo non è punibile alcun comportamento non previsto dalla legge come reato, ma non è punibile nemmeno il reato quando non procura danni a nessuno. Arrabbiata il ministro della gioventù Giorgia Meloni, che dice il via libera della Cassazione alla coltivazione di marijuana sul terrazzo è scandaloso. Esultano invece i radicali, questa storia anche sul Messaggero. Il governo dice cala l'uso di tutte le sostanze, gli operatori dicono i dati sono falsi, quindi il Messaggero parte da questa sentenza della Cassazione per parlare anche del consumo delle sostanze stupefacenti. In ogni caso la notizia è questa: per i giudici della Cassazione una piccola coltivazione, in questo caso una sola pianta, non crea danni e dunque assolto questo ragazzo. In primo piano. Alle 7:34 minuti, come detto, allora tutti i quotidiani si concentrano sulla questione manovra, la manovra che sale a 47 miliardi di euro, che dovrà essere approvata ieri domani dal Consiglio dei Ministri, ma ieri ha avuto un primo via libera politico e anche tecnico con la riunione tra Tremonti, Berlusconi e tutti i ministri. C'è da dire una cosa, tutto quello che leggete oggi sono comunque delle bozze, perché fino a che non verrà approvata domani al Consiglio dei Ministri la versione definitiva della manovra sarà quella lì. Ovviamente ecco la manovra dei tagli, così titola il Sole 24 Ore in prima pagina, e oggi sul Sole 24 Ore ci sono tutti i dettagli di quello che è previsto appunto nella manovra, almeno fino alle 7:35 di oggi, mercoledì 29 giugno. Correzione da 43-47 miliardi, 1,8 quest'anno, così si legge a pagina 3 Marco Mobili e Dino Pesole. Non più tagli lineari, ma dal 2012 un avvio di spending review per definire i fabbisogni standard di tutte le amministrazioni dello Stato. Se tuttavia si verificheranno scostamenti rilevanti degli obiettivi, sarà il Ministro dell'Economia a intervenire direttamente sugli impegni di spesa dei singoli ministeri entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, oppure selezionando e ricalibrando le singole dotazioni. Questo si legge nella manovra, e allora questa manovra, consultazioni politiche preliminari di ieri. Intanto per il 2011 la riduzione delle spese si assesterebbe sui 262 milioni, per il 2012 toccherebbe 1,4 miliardi, 2 miliardi e mezzo per il 2013, quasi 5 miliardi per il 2014. Quello che manca per il momento è l'intero capitolo sulla riduzione dei costi della politica, che dovrebbe apparire e comparire domani. Il quadro delle spese indifferibili per il 2011 inserite nella bozza del decreto legge mobilita nel totale 1,8 miliardi. In primo piano la proroga della partecipazione italiana alle missioni militari internazionali, stanziati 700 milioni, ulteriori 36,4 milioni stanziati per assicurare anche nella seconda parte dell'anno il concorso delle forze armate all'attività di controllo del territorio, 314 milioni dirottati alle regioni per le esigenze del trasporto pubblico locale, insomma poi tutti i dettagli per quel che riguarda le varie voci. Il ticket è quello che più colpisce tutti i giornali, ritorna il ticket, l'antipasto, racconta Roberto Turno a pagina 5 del Sole. Dal 1 gennaio 2012 l'antipasto sarà il ritorno del super ticket da 10 euro su visite specialistiche e analisi mediche, ma dal 2014 scatterà una vera e propria raffica di ticket aggiuntivi imposti dallo Stato sui farmaci, su tutte le prestazioni sanitarie, magari anche sui ricoveri in ospedale. E non sarà poca cosa, i ticket potrebbero dover garantire il 47% dei risparmi, mentre c'è la frenata sulle pensioni rosa. Si era, diciamo, sparsa la voce della possibilità di innalzare l'età pensionabile delle lavoratrici private. Alla fine di una lunga giornata però è scomparsa questa ipotesi, l'idea di far arrivare a quota 65 anni è stato accantonato. Allora, questo per quel che riguarda tutti i dettagli della manovra. Per esempio, il Fatto Quotidiano a pagina 3 si concentra con Carlo Tecce su una norma che è apparsa e scomparsa in un attimo. Pare che sia comparsa, che fosse comparsa, anzi, visto che è stata già tolta, al punto 14 della manovra economica, in nome delle liberalizzazioni, l'abolizione di molti ordini professionali. 13 albi su 19, compresi giornalisti, medici, psicologi, geologi, ancora elencando. Ma scrive il Fatto, non c'è stato nemmeno il tempo di registrare i commenti sdegnati di presidenti e segretari degli ordini con l'avviso di sfratto che, tra un vertice politico e una colazione di lavoro, Palazzo Chigi smentisce se stesso. L'articolo è stralciato. Dunque, titola il Fatto, aboliamo gli ordini professionali, anzi no. Abbiamo scherzato. Questo è l'aspetto di quelle che sono i contenuti della manovra. Poi ne ho detti alcuni, poi li dovrete vedere dettagliati. Come detto, il Sole 24 Ore li pubblica tutti, dei pensioni, ticket, sanità, ministeri, frequenze, soppressione degli enti, eccetera. C'è l'aspetto politico. La Padania oggi in prima pagina titola Governo alla prova dei conti. C'è Bossi che esprime cautela e dice attenzione, non è ancora finita il problema per il governo rischia ancora. C'è un Maurizio Belpietro, direttore di Libero, e non è il primo giorno, che è critico. Ebbene, Maurizio Belpietro oggi su Libero in prima pagina scrive pochi lo ricordano, ma il primo governo Berlusconi le penne le lasciò sulla riforma delle pensioni, perché la Lega di Bossi staccò la spina senza pensarci troppo, e se lo rammento è perché non vorrei che la storia si ripetesse. In un periodo in cui tutti si trasformano in apprendisti stregoni suggerendo tagli e misure per far quadrare i conti, il rischio di uno scivolone è inagguato. Non a caso il capo del carroccio ha già messo le mani avanti. Le pensioni non si toccano, sottinteso, e chi le tocca muore. E tra l'altro Belpietro scrive tasse non si taglia e per gli sprechi forse si vedrà. La verità, scrive Belpietro, è che la manovra è ancora in alto mare, la riunione di ieri è servita a nulla, se non a ribadire che la correzione dei conti sarà di oltre 40 miliardi di euro. Per ora si va avanti così, senza tagli ma senza l'alleggerimento del carico fiscale. I tre scaglioni, l'IRPEF al 20% per chi guadagna meno, tassazione massima al 40%, per ora rimangono un progetto, anzi un'aspirazione. Insomma, le critiche di Maurizio Belpietro, che dice attenzione perché così non cambia molto. L'aspetto politico poi si caratterizza anche per tutti i retroscena. Allora, dicevamo, poteva essere il giorno della resa dei conti tra Tremonti e Berlusconi, e invece tutti i commentatori della politica, o i retroscenisti, come piace chiamarli a me, di tutti questi retroscena, raccontano di un Giulio Tremonti che si è presentato con un piglio più meno autoritario, un piglio più conciliante, con la voglia di parlare e dialogare con tutti i ministri. È stato accolto, racconta il Corriere con Paola Di Caro a pagina 3, da Berlusconi così: ah, lei è il signor Tremonti? Prego, venga, venga. Tra l'altro qualcuno ha fatto notare il signor Tremonti, non il ministro Tremonti. Caro Giulio, ha detto Berlusconi, adesso dovrai avere la pazienza che tutti noi abbiamo in certe circostanze. Quella pazienza che non può essere solo prerogativa del sottoscritto. Ora noi ti faremo molte domande e tu cortesemente ci darai le risposte. E lì pare che sia iniziato questo dialogo con un Tremonti invece disponibile a parlare, a spiegare rispetto magari al passato, quando i ministri lamentavano, arriva qui con le manovre blindate senza dare spiegazioni, dice prendere o lasciare, la situazione è questa. Tra l'altro c'è stato alla fine anche la comparsa nel consiglio nel pre-consiglio dei ministri di Crosetto, il sottosegretario che aveva attaccato manovra da psichiatria, ora si corregge, ho detto da psicanalisi più che da psichiatria, insomma comunque uno che diceva Tremonti non è Dio, uno che ha detto se lo devo paragonare a un cibo lo paragonerei a un bollito, e invece Crosetto poi è andato a stringere la mano a Tremonti. Si è presentato alla fine di questo pre-consiglio dei ministri, racconta Fabrizio Roncone sul Corriere, c'è stata anche la stretta di mano e una carezza. Gli voglio bene, ha detto Crosetto a Giulio, di Giulio, gli voglio bene, ma sia meno permaloso. Vabbè, tutto bene, quel che finisce bene. Chi lo sa, secondo Libero, Silvio si sente vincitore, ho domato Tremonti, questo nel retroscena di Salvatore Dama. C'è anche un giallo, attenzione, sulla questione della manovra, i tagli della politica. Lo so che quando ieri si è sparsa questa notizia, la possibilità che da luglio, così ha detto almeno il ministro Romano, ministro dell'Agricoltura, che da luglio i ministri percepiscano non più due stipendi, quello da parlamentare e da ministro, per chi è anche parlamentare, ma solo quello da uno dei due, quello da parlamentare, tutti a dire, almeno un piccolo segnale. Cioè, è un giallo in realtà, non è detto che sia così, lo ha detto il ministro Romano, ma vedremo domani la manovra definitiva. Registro su questo l'intervista straordinaria che Antonello Caporale su Repubblica fa al ministro Rotondi, uno che da tre giorni continua a dire basta questa demagogia contro la casta. Si campa facendo i conti della serva. Per la famiglia restano 4.000 euro. Così il ministro Rotondi, che si lamenta un po' del fatto basta questa storia. Lei crede che il parlamentare navighi nell'oro? Chiede il ministro Tremonti a Antonello Caporale. Conosco colleghi che valutano se possono restare a Roma un giorno in più, costretti a fare il conto della serva. Arrivano 12.000 euro, va bene, ma uno ti apre l'ufficio a Roma, lo devi pagare, no? Un contrattino, per quanto leggero, glielo devi fare, no? Un altro che ti apre l'ufficio nella città di residenza, lo devi pagare, no? Un terzo che magari ti segue, lo paghi e bruci 4.000 euro, poi 2.000 euro per dormire a Roma, poi devi mangiare 2.000 euro, per la famiglia restano 4.000 euro. Io da sempre faccio le vacanze al Lido Miramare di Pineto degli Abruzzi, la casa dei miei genitori. Né lussi, né cene, né vestiti. Ai tempi d'oro mettevo da parte anche la metà di quel che guadagnavo, poi fidanzamento, matrimonio, figli e vatte la pesca. Il ministro Rotondi dice si campa facendo i conti della serva. E così Iena sulla stampa, anche stavolta pagano i soliti disgraziati, pensionati, malati, ministri. In primo piano. Sguardo su due inchieste sui giornali. Una è la cosiddetta P4 con Libero, che titola in prima pagina gli SMS rubati a Berlusconi. La vicenda è questa. La segretaria, ora è la segretaria del governatore della Campania Caldoro, Benedetta Valanzano, che tra l'altro Libero scrive ex anche attrice di fiction, ballerina nel programma Rai Ballando con le Stelle, che è intercettata in qualche SMS con Berlusconi, pubblicati tra l'altro da Libero, ma gli SMS sono, non so, pare varie chiamate a vuoto e poi caro presidente, pur lasciate diverse chiamate anche in segreteria, non ho purtroppo avuto il modo di sentirti. Divenuta la prima dei non eletti in campagna, inizio l'anno ancor più attenzione e impegno, augurandomi di poter continuare con sempre maggiore impegno e entusiasmo questo affascinante percorso intrapreso. La tua idea delle cose mi dà forza. Speriamo a presto, un forte abbraccio, con immenso bene, Maria Elena. Oppure questa. Sono bellissime le foto che ora guardo su chi. Arriva la serenità che solo chi ha un animo profondamente, autenticamente per bene, buono, riesce a trasferire. Tutto passa, ma non il bene. Senza retorica, mio caro presidente, sei la vera rivoluzione di questo paese che grazie a te per la prima volta è diventato consapevole di se stesso. Baci, con immenso bene, Maria Elena. Vabbè, insomma, SMS di grande affetto. E Libero dice è una furbata, nessuno dei due è indagato, ma ecco qui SMS, telefonate intercettati, e Libero pubblica anche gli SMS. Seconda inchiesta è quella che il giornale mette in prima pagina, ma anche tutti i giornali, tangenti sugli appalti ENAC, arrestato il PD Pronzato. È stato arrestato Franco Pronzato, membro del Consiglio di amministrazione dell'ENAC, coordinatore nazionale dell'area trasporti aereo del Partito Democratico, si è subito autosospeso dal partito, l'accusa è una mazzetta di 40.000 euro, in lista ci sono però nomi di politici e tra l'altro il giornale punta molto su questo, spunta un pizzino sospetto, nomi di politici con cifre accanto, mentre il Corriere fa sapere l'imbarazzo di Bersani, il segretario Bersani, che in una nota dice spero solo sia estraneo, ma era arrivato al ministero prima che arrivassi io. Questo per quel che riguarda le inchieste giudiziarie. Oh, voglio andare sul Sole 24 Ore per una notizia che il Sole mette giustamente in prima pagina con ampio risalto. l'intesa che è arrivata sui contratti, intesa unitaria su contratti e rappresentanza, questo è il titolo di prima pagina. Se un accordo aziendale viene approvato dalla maggioranza delle RSU, le rappresentanze sindacali unitarie, oppure delle RSA, le rappresentanze sindacali aziendali, le norme sono efficaci per tutto il personale in forza all'azienda e vincolano tutte le organizzazioni sindacali che hanno firmato l'intesa. È un qualcosa sul quale Confindustria si era battuta molto e che ha visto anche la firma della CGIL. Questo è il punto più interessante. L'unità si era interrotta nel 2009 quando la CGIL aveva deciso di non firmare la riforma della contrattazione. Ora c'è anche questa foto con Emma Marcegaglia, il presidente di Confindustria, e i tre rappresentanti dei sindacati più importanti, vale a dire Susanna Camusso per la CGIL, Raffaele Bonanni della CISL e Luigi Angeletti della UIL, ritratti a pagina 9 dopo la firma, via all'era delle intese valide per tutti, firma unitaria, possibili accordi modificativi dei contratti nazionali, con Marcegaglia che dice finisce il tempo delle divisioni, anche se registro che una parte della CGL con Gianni Rinaldini, intervistato dal Manifesto a pagina 7, definisce lunare e imbarazzante questa intesa. Lui, che è stato per 8 anni segretario generale della FIOM, ora è coordinatore dell'area La CGL che vogliamo, membro del direttivo nazionale di Corsa Italia, dice: è la conferma delle voci che dicevano che il testo c'era già, non è stato presentato alcun testo e dunque la situazione è lunare e imbarazzante. Gianni Rinaldini definisce questo il suicidio del sindacato. Staremo a vedere come si evolve la situazione. Dal punto di vista della cronaca, registro molto sulla TAV ancora. I NoTav dicono torneremo in 20.000, domenica ci prenderemo la Maddalena, e attenzione, attenzione, è anche annunciato domenica Beppe Grillo in arrivo alla Maddalena, lì dove è stato aperto il cantiere NoTav. Mentre che cosa c'è anche da registrare come cronaca? Beh, attenzione, intanto c'è un giallo a Monte Carlo. C'è un giallo a Monte Carlo dove sabato, io non so niente di queste cose, cioè ho scoperto chi erano William e Kate il giorno del matrimonio, poi ho scoperto anche chi era Pippa. Però sabato si sposa Alberto, può darsi anche che sbagli i nomi, ma cerco le didascalie, il principe Alberto, no? Il principe di Monte Carlo. E si sposa con Charlene. E che cosa succede? Attenzione al giallo su tutti i giornali. Charlene voleva scappare da Alberto. Questo è il titolo di una pagina della Stampa, ma anche il Corriere della Sera. Monaco, il giallo di Charlene, in fuga dal principe. E anche su Repubblica, un figlio segreto, un figlio segreto per il principe, giallo sulle nozze a Monte Carlo. Attenzione, il figlio segreto non è quello di cui già si sapeva, cioè il figlio Alexander avuto da una hostess del Togo, ma pare che la quasi principessa di Monaco abbia scoperto che il suo quasi consorte Alberto abbia un altro figlio, un secondo figlio, avuto 2 anni e mezzo fa. Secondo il settimanale L'Express, addirittura la futura sposa ha tentato di scappare, tornandosene in Sudafrica, è stata intercettata dalla polizia dell'aeroporto e ricondotta all'ovile. E ma che è? Cioè, non può scappare, sembra la Corea del Nord, Monte Carlo. E da allora, infatti, è per questo che appare nelle ultime interviste con il volto molto teso, molto tirato, eccetera. Vabbè, si sposeranno sabato tra 2 giorni? E soprattutto, che razza di matrimonio sarà a questo punto? Non si capisce bene. Comunque, questo è il dato di fatto. Voglio chiudere con che cosa? Rompipallone oggi di Gene Gnocchi sulla Gazzetta dello Sport. Berlusconi minaccia i napoletani: se non mi date AMSIC, vi restituisco Apicella. Ci fermiamo per il giornale radio.